martedì 2 febbraio, ciao a tutti e a tutti, questa è Radio Onda Rossa e comincia Note Queste Città. (06) 49 17 50 il numero per mettersi in contatto con noi. Fabio, la settimana scorsa neanche il numero mi hai fatto dire. Ma dai. Ciao Fabio. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Ale. Oggi cominciamo puntuali, incredibile. Oggi puntualissimi. Poi inizia a far caldo. Sì. Bella, la primavera anticipata. Bellissimo. Allora, amico mio, oggi è una puntata un po' particolare, eh? Sì, oggi è una puntata un po' particolare perché oggi... Anche con una formula nuova. Sì, ci andremo a spasso tra Detroit, Los Angeles, New York, Tokyo. Abbiamo pensato di dedicare la puntata a due musicisti incredibili, due DJ e tanto altro, producer, insomma, tanto altro, due artisti. Uno si chiama J Dilla, l'altro si chiama Nu Jabez. Perché? Perché? Cosa hanno perché in comune? Oggi? Perché hanno in comune un sacco di cose. Innanzitutto, entrambi avrebbero compiuto 47 anni il 7 febbraio, nati quindi lo stesso giorno dello stesso anno. Purtroppo hanno avuto in comune un destino abbastanza tragico, o meglio tragico, perché tutti e due sono morti giovani, prima del tempo, tutti e due nel mese di febbraio, tra parentesi, altra sì, spiacevole coincidenza. E poi quello che proveremo a raccontare durante questa puntata, sono accomunati anche dal, oltre che dall'amore per la musica e per il jazz in particolare, sono accomunati dal fatto che tutti e due hanno rivoluzionato il loro mondo, l'hip hop statunitense e mondiale J Dilla, ma anche il no soul, l'hip hop giapponese Nu Jabez, ma avevano tanto in comune dal punto di vista umano, tanto in comune nel modo di, che avevano entrambi di umanizzare, diciamo così, le macchine con cui giocavano, con cui suonavano, con cui tiravano fuori quelle basi favolose che speriamo che andremo ad ascoltare e che speriamo vi piacciono. Abbiamo diviso la puntata in due parti proprio per avere il massimo rispetto dei due artisti, non abbiamo fatto legami forzati, quindi la prima parte Alessandro ci racconterà J Dilla, nella seconda parte sarò io a raccontarvi Nu Jabez. Allora io, e quindi partiamo con J Dilla, ovvero James Hewitt Yancey, questo il nome del primo dei nostri due protagonisti di oggi, nato appunto a Detroit il 7 febbraio del 74. Quello che gli amici ricordano di lui è che era un vero e proprio onnivoro musicale, un instancabile lavoratore, metà della giornata la passava nei negozi di dischi, l'altra metà la passava a casa, chiuso in camera a fare beat. Però partiamo, insomma, no? Oddio, che è accaduto? L'accendino, lo stonore. A 18 anni forma la crew degli Slum Village e incontra in quel periodo l'uomo che poi gli avrebbe cambiato la vita, ovvero Hump Fiddler, il tastierista dei Parliament e Funkadelic, che abitava anche lui a Detroit. Fiddler lo porta nel suo studio, gli fa registrare qualcosa e soprattutto gli fa conoscere la Akai MPC, il campionatore che diventerà poi il suo marchio di fabbrica. Nel 1994, durante il festival di Lollapalooza, dove si esibivano tra gli altri sia i Parliament che gli A Tribe Called Quest, Fiddler si avvicina a Q-Tip e gli dice: guarda, c'è un fratello che dovresti conoscere perché ti piacerà tantissimo, i suoi beat fanno impazzire. Quindi Q-Tip lo prende in parola, va a Detroit e si fa presentare Yancey, che ormai si faceva chiamare JD, e le sue crew, gli Slum Village, quelle che aveva prima, e nel frattempo ne aveva formata in altra, i Five Elements. I Five Elements erano formati insieme a Proof, che è un personaggio fondamentale nella scena dell'hip hop di Detroit, perché è colui che organizzava i tornei di freestyle nel retro bottega di un hip hop shop. A questi tornei Proof portava il suo miglior amico, tra la diffidenza generale, ovvero il suo amico Eminem. E dicevo, Fiddler fa ascoltare a Q-Tip i nastri con i beat di Dilla, Q-Tip è insomma entusiasta, li porta a Common, a Keslov, ai Farside, che lo vorranno alla produzione del loro nuovo album, e quindi J.D. parte per Los Angeles con Q-Tip e forma la crew dei Yuma e produrrà i brani e remix per Michael e Janet Jackson, per Whitney Houston e Jamiroquai. Robetta, insomma. Sì, robetta, così. Nel 1996 però vede la luce il nuovo lavoro degli A Tribe Called Quest, Beats, Rhymes and Life, ci partecipa di, e meglio, o meglio, è lui a ridefinire il sound del gruppo. Noi ci ascoltiamo una traccia tratta da quest'album, si chiama The Jam. Loro sono A Tribe Called Quest, alla produzione JD. We'll be right back. Heineken bottle caps and the aroma of boom. Around the time everybody just got home from class, shooting dice, talking shit, hoping the cash would land. Yo, this was around the time when I didn't know no better. Junie rolled around in the tinted out Jetta. Then he introduced me to that hydro smoke, and I took one too. Yo, I almost choked. See, I never smoked before, so my nerves got shot. Then he told me about the party at the spot Jam Rock. It was guaranteed on, but I said, son, chill. There's a joint around the way that's supposed to be real. Word. He said, we got all day, so we gonna do it right. Hit your man's joint first and Jam Rock it one night. Then I said, aight. Then I hopped inside the jetty. Let me take a shower, I'm sweaty, and then I'll be ready. Tonight is the night I get my groove on steady and get my drink on with that Fortnite Betty. I went upstairs to get fly, smoke my tie, drunk some liquor to meet my hot quicker. Now I'm tight simmo, the party is the MO. Me and my crew, we get it started like a demo. 11 in the evening, I'm feeling like a heathen. This thing is going down and I highly doubt I'm leaving. Booty cheeks, heart emotion, and the kids was drinking potion. Word is born, that black moon joint got me open. Yo, the DJ put the script, you want that good shit that made the kid lose his grip. Blending around the tip topping, got these shorties topping, number copping. Ain't no stopping me now, yo, I'm bound to win. Till that thing kicked in, the Alizé had me stuck. I don't know where to begin. Again, again, again, again, again, again, again, again, again. Now I'm feeling kinda jaded, while incoherent. Me and the fellas started acting irreverent, butt grabbing, mad laughing, just asking. Then that shit caught up, these shorties looking fed up. They said you jonesing with this one, you jibbing with that one. Hey yo, I'm just doing my thing, yo, I'm just having fun. You don't see me in here wildin', pulling out no gun. Yo, I see some of that thing, girl, and I want some. So let's step inside the corner so that we can rap on over this bumpin' ass song and plus some Ontario. I hit you with the good lovin' plus filet mignon. Yeah, screamy screams, that's that same old song. Ayo, tell me why the hell your breasts smell so strong. You put some brakes on your yappin' or you won't live long. Please, nigga, push on. Alright, Scram, see you later. Scram. Can't mess with the street sharks or these alligators. I can't take it no more. Yo, it's damn near four. I've been partying and drinking since I came out my door. Look at these kids about to mix it. Damn, where's the exit? Son jetted to the ride and got the burner out the Lexus. Hey yo, he cocked his joint back like he's about to let him have it. Kid, I kept on moving like the energy on the rabbit. Hey yo, yo, it's time to skate. Ain't no time to contemplate. Whoops, look at it, here's Jake. Alright, you guys wanna move the cars? Come on, let's go. Yo, come on, yo. E poi c'è una lunga coda di chiacchiere su questa The Jam degli Atrapical Cast. E quindi il nome di Dilla inizia veramente in pochissimo tempo a circolare tra gli addetti ai lavori, ma anche tra gli appassionati, diciamo, della black music in generale. E a fine anni 90 entrerà a far parte di un importante collettivo. Si chiamano i Soul Squarians. È un collettivo di cui fa parte, insieme a Q-Tip, anche Kest Love, anche Erika Badu, Common, Mos Def, ma anche il bassista Pino Palladino e il trombettista Roy Hargrove e soprattutto D'Angelo, che, diciamo, con questo gruppo di amici e di amiche e musicisti voleva dare un seguito al suo debutto discografico del 1995, ovvero Brown Sugar. È proprio D'Angelo a volere anche di informazione, e Sosquariam, diciamo, come collettivo non firma nessun album, visto che l'intento era proprio quello di contribuire alla creazione delle produzioni dei singoli musicisti che ne facevano parte. Quindi se c'era il disco di Erika Badu e partecipavano un po' tutti, o suonando o con le idee o con la produzione, e questo collettivo faceva base agli Electric Lady Studios a New York, dove si ritrovavano a fare lunghe e anche innovative registrazioni. Quindi quindi facendolo diventare in pratica tra la fine del Novecento e il 2000 un po' il fulcro della nuova black music. Qui furono registrati i Roots, Things Fall Apart, lo stesso Voodoo di D'Angelo e Mama's Gun di Erykah Badu. Il ruolo di Dee è sempre più importante, le produzioni che gli vengono affidate sono sempre di più, lui non sbaglia un colpo e nel 2000 regala a Common per il suo Like Water for Chocolate questa splendida delight. Never do a la like this. Gotta be something for me to write this. Queen, I ain't seen you in a minute. Wrote this letter and finally decide to send it. Sign, sealed, delivered for us to grow together. Love has no limit, let's spin a slow forever. I know your heart is weathered by what studs did to you. I ain't gon' start them cause I probably did it too. Because of you feelings I handle with care. Some niggas recognize your life but they can't handle the glare. You know I ain't the type to walk around with matching shirts. A relationship is effort, I will match your work. I wanna be the one to make you happiest and hurt you the most. They say the end is near, it's important that we close to the most high. Regardless of what happened, on him let's rely. There are times when you need someone. Yeah. Second, it's important we communicate and tune the fate of this union to the right pitch. I never call you my bitch or even my boo. There's so much in the name and so much more in you. Few understand the union of woman and man. And sex and a tingle is where they assuming it land. But that's fly by night for you in the sky, right? During these cold, shy nights, moon, you my light. If heaven had a height, you would be that tall. Ghetto to coffee shop, you, I see that all. Let's stick to understanding and we won't fall. For better or worse times, I hope to me you call. So I pray every day more than anything. Friends will stay as we begin to lay this foundation for a family. Love ain't simple, why can't it be anything worth having? You work at annually. Granted, we've known each other for some time. It don't take a whole day to recognize sunshine. Second, it's kind of fresh, you listen to more than hip-hop. And I can catch you in the mix from beauty to thrift shop. Plus you shit pop when it's time to, thinking you fresh. Suggesting beats I should rhyme to. At times when I'm lost, I try to find you. You know to give me space when it's time to. My heart's dictionary defines you. It's love and happiness. Truthfully, it's hard trying to practice happiness. The time we committed love, it was real good. Had to be for me to arrive and it still feel good. I know the sex ain't gon' keep you, but as my equal, it's how I must treat you. As my reflection, the light, I'ma lead you. And whatever's right, I'ma feed you. Ta-ka-da, ta-ka-da, ta-ka-da, ta-ka-da. Yo, I tell you the rest when I see you. Peace. Che bella questa delight de Common, eh? Cioè c'è la voce de Common, la base di Dilla. E che pensavo poi? Noi all'età di Questlove eccetera c'eravamo la comitiva in bischia, loro invece agli Electric Studios. No, parla per te. Dove c'avevi la comitiva? Comunque, al parco. Al parco. Era che facevi al parco in comitiva? Ma non lo so, adesso l'ho detto così per dire. Fa cicoria. Sì, fa cicoria. Rughetta, cicoria, sì. Lumache. Lumache. Comunque Keslop disse in un'intervista: Dilla ci ha fatto uscire dal deserto con i suoi beat, che non voleva fossero precisi al millesimo, non voleva la quantizzazione, voleva umanizzare il loop meccanico. Il mio drumming gli deve tutto, la batteria un po' in ritardo, i suoni caldi, il battito di mani, questi i marchi di fabbrica che rendono Dilla uno dei padri del neo soul. E come era prefissato al momento della nascita dei i Sosquarians, nel 2000 prende vita anche il seguito di Brown Sugar, ovvero Voodoo di D'Angelo. Sembra che Lenny Kravitz dovesse registrare tra l'altro la sua chitarra su alcune tracce, su alcuni beat proprio di J Dilla, però entra in studio, gli fanno sentire, dice: no ragazzi, non va bene perché i pad delle batterie non sono sincronizzati. Pensa che grande intuizione. E dice: io non ci suono su sta roba. E quindi sembra che la collaborazione sia finita proprio per questo motivo. Una delle tracce più belle, una bella figura ha fatto una bellissima figura, e dice: una delle tracce più belle del disco è proprio a firma di JD, che però non viene accreditato. E questa non è la prima volta che gli succede, perché è successo anche con Janet Jackson. Lui si arrabbiò molto e poi fece un remix della stessa canzone che veramente spaccava. Sarà sempre Keslop a dire qualche anno dopo l'uscita: ragazzi, su Feeling Make Love non c'è il nome di JD, ma quel pezzo è il suo, perché il brano in questione è proprio una cover di Roberta Flack mischiata ad alcuni beat di Pete Rock, e questa è Feeling Make Love, lui è D'Angelo. Come true. e finisce così, legandosi poi alla traccia successiva, questa Feel Like Making Love di D'Angelo, che poi Dilla è cresciuto anche in una città come Detroit, che ancora alla, diciamo, agli inizi degli anni 70 ancora era in, quasi in piena epoca Motown. Poi è arrivato il ciclone del protopunk, Stooges e compagnia. Quando Dilla era ragazzo era la capitale mondiale della techno, il padre era un bassista, certo, jazz, la mamma una cantante lirica, quindi insomma questa, diciamo, stavo raccontando un po' di musica alla respirata. E noi intanto siamo arrivati al, al 2000, in cui Dilla trova finalmente anche il tempo di pubblicare un album con la sua vecchia crew degli Slam Village, si chiama Fantastic Volume 2. Il volume 1 era quello che conteneva quei beat che Q-Tip passava agli amici, non fu pubblicato all'epoca, girava soltanto in cassetta tra gli amici, bisognerà aspettare il 2005 perché venga pubblicato e messo sul mercato. Comunque questo Fantastic Volume 2 è una bomba, io non voglio parlare oltre perché al suo interno c'è questa What It's All About, Slam Village. Slum Village, yeah, yeah, yeah, yeah. Flip Mode Squad, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Check it out, y'all. We gon' bounce around like this, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. First class, full blast, smashed everything, women wiggle their ass. All my niggas analyze the color contrast. Live parallel bounce, shake control of mass. Focus, focus, focus. Smoke this, watch, bust around the dope biz. Hit y'all niggas with the bomb, diagnosis. Slum Village, hot shit, and you know this. Nowadays we talk funny and floss money. Jiffy shine a whip down in the day, sunny. Bust the rhymes in Slum Village and make a pilgrimage. From Detroit all the way back to the Brooklyn Bridge. Black facts and acts of crime. I'm spinning my max, spinning my wax, I'm feeling one time. Blow your mind, shine blind on y'all at the same time. Regulate shit cause I always come to take mine. What it's all about. Stop. What it's all about. Do it. What it's all about. Stop. What's on, nah, we worldwide. Who's crew, what up, yo. I'm every MC by the name of JD. Do it. Spell it out, though. Yeah, that's the way it is, nigga, get your money. Detroit, the metropolis. Super fly, why try, ain't no stopping this shit. SB, stay on top of this. It's the non-flopping this, niggas popping the c***. It's all real, ain't no props, nah, ain't no props in this. Stay in the mix like the Papadopoulos. Get it, then we get doctor, get it, the proper shit. SB, flip mode, the non-stopping this shit. To my nigga JD. What it's all about. Stop. What it's all about. Do it. What it's all about. Yo, live and wax with the extra rap. You see the ass been doing this shit since way back. Say that, when it comes to rap, we got a knack for that. And for that, we rap, also we rap. So this Lucas stack, gripping the fat Cadillac with the diamond back. If you was to ask me where it's at, said it's all about the cheese and the SV cats. On the real, with real Detroit rap. Player haters get the axe, your finesse, it lacks. See the urges, we can get you caught in the trap. Don't write your own rap, somebody else do that. It's word up. What it's all about. Stop. What it's all about. Do it. What it's all about. Stop. What it's all about. Do it. East Mac, Nicholas, niggas don't give a fuck. Frank Nitti got no pity on these niggas for what? My nigga Dane waking up the Ganny from Earth. Show these niggas how you get your money's worth. Moving in position with my mutual funds. Taking out your tankers and you don't know how I was done. I'm every MC plus three plus one. All around the world give me suckers to runs. Call me Bitch Maul with the Pepto shit. I guess that you can say that we the ultimate man. Flip Mode Squad in the slums to shit. Come on everybody, let me see you get down. Come on everybody. Stop. Motown, Motown, Motown, Motown. Do it. What it's all about. Stop. What it's all about. Do it. Stop. Tim Cook, making you bounce. A nigga Slum Village, making you bounce. Busta Rhymes, y'all, making you bounce. It's Flip Mode Squad, baby, making you bounce. Niggas in the world, making you bounce. All my bitches in the world, you know we making you bounce. Yo, yo, yo, we making you bounce. Just shake your little ass, girl, making you bounce. You bounce, you bounce, you bounce. The niggas ain't really screwed on too tight, yo. I mean, this shit ain't tight, yo. It ain't screwed on right. I mean, E anche qui termina un po' di chiacchiere insieme a Busta Rhymes, tra l'altro, che era l'altra voce che appariva in questo brano. Noi siamo arrivati al 2000. Sì. Già prima siamo al 2000. Allora, restiamo nel 2000, è vero, anche l'altro disco era nel 2000, perché no, scusa, ma siamo al 2001, no, il 2000, non mi far confondere. Perché il 2001 fa il suo esordio con un album solista, Welcome to Detroit, cambiando il suo nome da J Dilla, cioè da JD in J Dilla. Quest'anno per il ventennale, tra l'altro, sarà pubblicata un'edizione speciale che conterrà anche alcuni inediti e dei remix. Uno di questi è già uscito, di DJ Muro, un DJ giapponese. Il disco dovrebbe uscire tra pochi giorni, credo il 5 febbraio, se non sbaglio. Comunque questo sarà il primo dei due dischi solisti di Dilla, il terzo se consideriamo Champion Sound insieme a Madlib, e dopo la sua morte ne usciranno anche altri postumi. Tra questi c'è J Love Japan, che è dedicato ovviamente al Giappone, un paese che tanto amava Dilla insieme al Brasile, alla Bossa Nova. E sotto questo punto di vista il lavoro di J Dilla diciamo amplia un po' quello che succedeva nell'hip hop, che cioè andava lui ad esplorare anche altre musiche, altri territori, la Bossa Nova, ma anche Fela Kuti per esempio. Quindi questa è la cosa che poi lo scopriranno dopo chi ascolterà la puntata per intero, insomma, è quello che hanno in comune, un altro tratto in comune tra J Dilla e Nujabes, due appassionati di musica, due che anche Nujabes aveva la passione per il Brasile, per la Bossa Nova, e non solo per la Bossa Nova, insomma. Vabbè, lo c'erano i Kraftwerk prima, magari, che venivano campionati molto già dalla notte dei tempi, però insomma con Dilla entrano anche questi altri paesi, queste altre musiche. E il brano che ci ascoltiamo, che è tratto proprio dal disco Welcome to Detroit, si chiama It's Like That, lui è J Dilla. Yeah, yeah, I made big talk to rock JD. What? I'ma let y'all niggas pop the coochie, cause you pussy. Plus this 4-5 busting the back that ass up like Juvie. Sophisticated bourgeois niggas with bad habits, and if you don't like it, you can get it. Stick it when the sun don't glisten. Niggas is critics and some don't listen. I told y'all, persevering through all of this bullshit, and life is a black six and a hood rat catching the contact plus the energy. Get my brains blown out like John Kennedy. Remember me? Split a nigga in the cheek within a beat. Best kept secret, got some shit fixing to hit the street. Y'all niggas ain't even an issue. So real, a nigga bleed through the pencil. I need like to stay on the scene, cause y'all gay motherfuckers is mean. I'm seeing fine beats off this nigga, that's like the end of my career. Yeah. I tell this nigga like fuzz, man, fuck that. I'm trying to add these bitches like, you see me, I touch lacks. Give niggas pounds like, see me, I touch lacks. Plus tracks banging out the back of the range. Respect my gunning, I speak with the double barrel slang. In unison with this music in the back of my brain. Rockin' straw hats and Pradas, now I'm eating on McDonald's. But I know the time, it's time to get you up my bottle. Shit that's hard to swallow, you ain't even an issue. I'm so real, a nigga ain't got an issue. It's like that, turn it up, baby. It's like that. It's like that. It's like that. What? What? Yeah. What? Turn it up. What? Yeah. What? What? What? What? Turn it up, baby. I got a new respect for half-ass rappers and whack producers. There's something about pure talent that attracts the useless, but drains the pure talent juiceless. That's detrimental to the fruitless that drink artificially flavored sodas. Big egos to compensate small frames like Yodas. America made break down like dollar store purchases, but so-called real niggas turn to Catholic services. You know purpose, you don't hate me. I play hooky from new schools and teach about the old. Where rap cats just cold like Michigan weather, sporting fubu gear, pushing Timberland leather through city blocks with scriptures that blast and turn motherfuckers into father figures. Y'all niggas better recognize, ain't shit jumping off unless Tupac authorized. Tell a nigga like this, make like Dwelly and Rise. It's BC and everything we make is fly. I got a lot of shining to do, and when I drop, I'ma redefine hot. See, y'all niggas got a lot of rhyming to do. I'm trying to get a spot with a view. A tan six and a watch band with a diamond or two. Understanding? Granted, I'm a bust till I can't breathe. And every chicken alive got my cover, the vibe. Next to Usher or Jay-Z, the Montana way. Crashing cabaret, glasses, they cradle. Link swinging past my navel. Cocky enough to captivate you. You're all consumed. Just smell the arrogance in the air when I walk in the room. Recognize what you quest and press on. And if it ain't dawn, that nigga still pawns on the chessboard. Like Cat said, don't nobody give a fuck until you get them ducks and hit them up. I spit for the bucks, square business. What? What? Niggas, it's like that. Check D, drop the beat, what? Like That, JD, in questa puntata dove vi stiamo raccontando due grandi produttori, beatmaker, questo in particolare è J Dilla. Tra un attimo ci trasferiremo in Giappone. Siamo arrivati però alla, diciamo, alla coda della nostra storia. È il 2003, l'anno in cui a JD viene diagnosticata una grave malattia del sistema immunitario, e quindi iniziano i ricoveri ospedalieri, ricoveri sempre più frequenti e ogni volta sempre più lunghi. Ma lui non può smettere di fare musica. Agli amici che lo vanno a trovare e chiede di portargli questo o quell'altro disco della sua collezione sterminata, impiegheranno settimane gli amici per capire come muoversi in questa collezione di dischi. E naturalmente chiede anche il suo Akai MPC. La stanza d'ospedale si trasforma in pratica nel suo studio, e qui mixa le 31 canzoni che entreranno a far parte del suo Canto del Cigno, Donuts, che esce il giorno del suo 32esimo compleanno, il 7 febbraio è del 2006, quindi esattamente 15 anni fa. E tre giorni dopo Dilla muore per arresto cardiaco. Le canzoni contenute in Donuts, tranne una, non raggiungono i due minuti. Noi ci salutiamo con questa Bye, che è basata su un campionamento degli Isley Brothers che sentite in sottofondo, e poi giriamo facciata, partiamo per il Giappone alla scoperta di Nujabes. Ma prima un ultimo saluto a JD. Bye. Finisce così, tagliata, che poi partiva l'altra. Fabio, sono le 20:37, non so se hai notato il timing preciso che ho rispettato, che mi era stato imposto. Quindi spero tu hai... di fare lo stesso. Potresti avere anche un'ora per fare quello che chiunque altro farebbe in mezz'ora. Dai, sarò solo un po' lungo all'inizio perché per presentare il personaggio. No, solamente provo ad essere il più breve possibile. Comunque lasciamo gli Stati Uniti, l'ho anticipato, Ale, ce ne andiamo in Giappone. Più precisamente ce ne andiamo a Minato-ku, uno dei distretti in cui è suddivisa Tokyo, più precisamente nel quartiere Nishiazabu, e qui tra templi buddisti, palazzini d'ufficio, una schiera di locali di nightclub in cui si suonava jazz, crebbe l'enfant prodige dell'hip hop giapponese, l'uomo che ha rivoluzionato l'hip hop giapponese, si chiama Seba Yun. Però invertendo l'ordine delle lettere, il suo nome, il suo moniker, il suo nome d'arte Nujabes, appunto, lo il suo nome Murakami? Detto al contrario. Che cosa? Si frequentavano con Murakami? No, non si frequentavano. New Japanese incarna la perfezione, e anche qui ha certamente tanto in comune con Dilla e tanto in comune con tantissimi DJ hip hop, cioè lui incarna alla perfezione la figura del digger, cioè lo scavatore, quella figura, quella persona che vive per la musica e che dedica tutto il proprio tempo o tutto il tempo che può alla continua ricerca di nuovo materiale. Per dire, lui, New Japanese era quando era adolescente, quando tra i 15 e i 20 anni, quando in Giappone esplodeva la cultura glam, lui era uno di quelli che se ne stava chiuso in casa ascoltando vinili di Pharoah Sanders, Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans. E lui stesso in un'intervista ha detto: ho cominciato a fare basi, a fare delle tracce, perché volevo ascoltare la musica jazz e soul che campionavo. E insomma, lui stesso ammette che per lui il beatmaking venne dopo, cioè l'hip hop fu solo una conseguenza, solo tra virgolette una conseguenza del suo enorme amore per la musica e per il jazz in particolare. La sua primissima attività, quando aveva appena 21 anni, è stata l'apertura di un negozio di dischi, il Guinness Records, sempre a Tokyo. Era una grotta anche abbastanza angusta, si trovano dei video su YouTube che lui ha riconvertito a una vera e propria galleria delle tutte quelle rarità che aveva raccolto fino a quel momento. E anche qui Dilla, quando i suoi amici si perdono tra i suoi vinili, immaginiamo qualcosa di simile. Il negozio si rivelò un successo, la sua attività economica divenne un punto di ritrovo per tutti gli appassionati di musica e in particolare per chi andava a cercare hip hop, e lui stesso divenne un personaggio di culto nell'underground di Tokyo, perché si dice Edochiano, mi sembra, per la sua grande capacità nel fare mixtape. E un inciso che forse è utile dire in questo momento: l'hip hop in Giappone sbarca circa a metà anni 80 e sbarca soprattutto come è un fattore soprattutto di moda, e diciamo l'amicia, quello che porta l'hip hop in Giappone, che fa partire questa moda, è un film che si chiama Wild Style, un film americano che fece grande, che ebbe grande successo anche in Giappone. La musica, sì, certo, la musica arrivò dopo, però in Giappone arrivò dopo soprattutto per un problema non tanto culturale ma quanto linguistico, cioè non riuscivano a fare rap in lingua giapponese, tant'è che quando la musica poi arrivò e tutti di fatto usavano la lingua inglese. I pionieri del genere erano copie dei Public Enemy e dei Beastie Boys, erano pochissime le eccezioni. I testi erano molto, si concentravano sull'edonismo, insomma, su quanto ero figo, quanto ero vestito bene e quanto sei bella tu. Si teneva lontano da tutto questo ambiente, lui piuttosto che imitare preferiva mescolare le influenze d'oltreoceano, sperimentare, innovare. La svolta nella sua carriera arriva nel 98 quando fonda un'etichetta musicale, la Hideout Production, la fonda per promuovere amici, colleghi, talenti di strada. Non pensa tanto a sé, o meglio pensa a sé per avere uno spazio di lavoro per i suoi mixtape. Però lui è un appassionato, è un cultore musicale, quindi le sue orecchie, i suoi occhi arrivano anche in altre parti del mondo, arrivano negli Stati Uniti, arrivano in Virginia, dove scopre un rapper di nome Substantial, e di questo rapper lui si innamora, lo produce e distribuisce il suo primo disco. Il titolo è profetico perché si chiama To This Union A Sun Was Born, cioè da questa unione è nato un sole. Tra i due nascerà una collaborazione destinata a durare fin quando New Jobs non morì, e l'album fu un grandissimo successo in Giappone, dove addirittura raggiunse la top 10. Da quest'album ci ascoltiamo una canzone che si chiama If I Was Your Mick. Feel that one time, know what I'm saying? There's a little something for my man, Cash, the Liverpool Renaissance, you know what I'm saying? Original Skin Crew, UV representing, you know what I'm saying? Ultraviolet, substantial and neutral, that's why. Say if I was your MIC, do you think you can treat me properly instead of dropping me and abusing me? Sometimes I wish y'all would stop using me. Say if I was your MIC, do you think you can treat me properly? properly instead of dropping me and abusing me. Sometimes I wish y'all would stop using me. What's going on? Hundreds of people stay in my direction. There are a few others who I resemble in my section. House lights them denying placed under the spotlight. The others disappeared like the names of Bill Cartwright. Amongst chatter, I hear footsteps headed toward me. Oh my God, it is a whack MC headed for me. To the wire, I'm connected, unable to exit. Escape's impossible. Oh no, he got me in a chokehold. Please make him put me back. Why me black? I scream frantically, causing feedback. The crowd react with ruckus when him and his crew touches. Has to be a way to escape from his sweaty clutches. Losing it, slowly becoming suicidal. Cause of his weak recital, crowds become homicidal. I'm trapped there wondering why the others didn't warn me. I could've avoided this whack nigga spitting on me. Microphone respect, 1, 2, 1, 2. Say without a microphone, what you gonna do? Say microphone respect, 2, 1, 2, 1. Yo, without an MIC, what you gonna do, son? Yo, microphone respect, 1, 2, 1, 2. Say without a microphone, what you gonna do? Yo, microphone respect, 2, 1, 2, 1. Yo, without an MIC, what you gonna do, son? Say if I was your MIC, do you think you can treat me properly instead of dropping me and abusing me? Sometimes I wish y'all would stop using me. Say if I was your MIC, do you think you can treat me properly instead of dropping me and abusing me? Sometimes I wish y'all would stop using me. Some people get cocky once they realize they got me. Anyone can turn me on, but not everybody can rock me. Perpetrating dope is your presentation to stop me. Too much for you to handle, so you suckers often drop me. In this line of work, I get around more than a little bit. Hearing idiots trying to rewrite when they're illiterate. Don't know who the F with, this phone don't protect shit. Drowning in saliva, now I feel infested. Saturated in whackness, y'all abusing your friend. Don't be mad when they say you can never use me again. Yo, I know I'm not perfect and at times unreliable, but I'm the only reason why your voice is recognizable. Don't wanna blow me, so now you smacking my head. How about you quit yelling and try rapping instead? I've been speaking of race, now I'm greeted with a strangle. When will they realize I'm to be praised, not mangled? Microphone respect, 1, 2, 1, 2. Say without a microphone, what you gonna do? Say microphone respect, 2, 1, 2, 1. Yo, without a MIC, what you gonna do, son? Say microphone respect, 1, 2, 1, 2. Say without a microphone, what you gonna do? Say microphone respect, 2, 1, 2, 1. Yo, without a MIC, what you gonna do, son? Say if I was your MIC, do you think you can treat me properly instead of dropping me and abusing me? Sometimes I wish y'all would stop using me. Say if I was your MIC, do you think you can treat me properly instead of dropping me and abusing me? Sometimes I wish y'all would stop using me. What? Check it out, yo. Substantial and new Jabez staying true to this. No doubt, Yo, microphone respect, 1, 2, 1, 2. Yo, yo. Say without a microphone, what you gonna do? What you gonna do? Say microphone respect, 2, 1, 1, 1, 1. Say without a microphone, what you gonna do? Say without a microphone, what you gonna do? Say If I Was Your Mic, Substantial, grazie per il trillino. Il disco che tra l'altro io ho scoperto in questa puntata, mi ha fatto conoscere Fabio, il disco veramente bellissimo, se sì. Ve lo consiglio, peccato un po' la copertina però, eh. Perché mi piace pure la copertina? A te piace? Sì. Sembra tipo quelle delle frasi sui social. Gli ascoltatori non. No, non sembra quello delle frasi di speranza, no? Tipo non importa se piove, il sole è dentro. Vabbè, mi piace anche molto la copertina. Comunque, adesso ho detto il grosso, insomma, della biografia di Mujabes. Lui comunque, quindi, è lanciatissimo tra il negozio dei dischi e la sua etichetta musicale, è lanciatissimo nel mondo musicale dopo tantissime. E lui, ricordiamo, era comunque un personaggio di culto per i suoi mixtape, ma finora non aveva ancora, nei primi anni lui non fa nulla in prima persona. Dopo tante produzioni, distribuzioni, tante collaborazioni, il 2003 è finalmente l'anno di Metaphorical Music, il suo primo disco in studio firmato appunto a nome Nujabes, appunto, e basta. E il sound di Q-Tip e colleghi, quindi probabilmente anche di J Dilla, no? E questo è un altro tratto in comune: lui ha un grandissimo amore per i Tribal Colored Cats, e poi quello che li accomunava anche in questo caso, torno alla figura di Dilla, era l'amore per il jazz e il saper mettere insieme il jazz con l'hip hop. Il lato rapper disco viene portato avanti dagli amici storici di June, mentre il beatmaking, come dicevo, è al confine perfetto tra jazz e hip hop strumentale. Tra le 15 canzoni che compongono l'album abbiamo scelto di farvi ascoltare Horn in the Middle, e qui la Joshua di Miles Davis, il pezzo che chiude Seven Steps to Heaven, viene mescolato con le tipiche sonorità della big beat inglese di fine anni 90, con un risultato stupefacente. Il basso di Ron Carter fa la parte del leone, la voce che ascolterete in sottofondo, che ci va legato nella prima parte della canzone, invece quella di John Coltrane in un'intervista per una radio svedese, se non vado errato, Nujabes, comunque Horn in the Middle. Beh, anche a Nogebes il Brasile piaceva, eh? Sì, si sente parecchio, parecchio, particolarmente in questa Horn in the Middle che abbiamo appena ascoltato. E questo è tratto appunto da Metaphorical Music, e il suo disco esordio. Il disco esordio che arriva alle orecchie di Shinichiro Watanabe, che se il nome non vi dice nulla, certamente vi dice qualcosa Cowboy Bebop. Lui appunto è il regista e produttore di questo anime famosissimo, una serie in cui gli elementi western e noir si mescolano e sono sostenuti da una colonna sonora che mette insieme jazz e blues, un miscuglio che si rivelò vincente. Anche la colonna sonora fu un grandissimo successo, composta da una musicista giapponese che si chiama Yoko. Eppure l'anime era fighissimo. È fighissimo. E quindi Watanabe voleva replicare l'operazione per il suo nuovo anime Samurai Champloo, però stavolta scelse Nujabes, e il risultato fu un successo straordinario. Noi però lo teniamo fuori da questa puntata, perché quello che ci interessa qui raccontare è che quell'esperienza fatta per Samurai Champloo costituisce per Nujabes il laboratorio dove sperimenta gli ingredienti per il suo nuovo lavoro, che poi sarà il suo capolavoro, Mortal Soul. Alla base del titolo c'è un gioco di parole che sta per dire che l'anima è il centro tonale delle variazioni del sentire umano. Anche qui un molto Coltrane. Sì, un rimando, volevo dire, a Jazz, a Davis, a Coltrane. E il DJ parte da una maggiore convinzione dei propri mezzi rispetto al disco d'esordio, e i risultati gli danno pienamente, pienamente ragione. L'album stupendo è composto da 14 tracce, 7 strumentali e 7 rappate, e il disco si apre con una canzone che si chiama Feather, un brano che Nujabes si costruisce sul pianoforte, è qui sotto. Il tennista? Il tennista? No, costruisce sul pianoforte di Yusef Latef, dico, e qui no, era Feder. Fondo. Non tocca più, ho perso la battuta. Hai detto Feder, ho detto il tennista. No, quello è Federer. Lo so. Ok. E il pezzo, il sample di Yusef Latef accoglie il flow di Sis Star, un altro rapper statunitense con cui Nujabes collaborerà spesso durante la sua carriera. Noi ce l'ascoltiamo, Feder Nujabes. A feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, lying with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good. The rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon, an average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon. Fly like an arrow. God until I'm gone. distrarre a sfottere. No, ti vedo che ridi. Perché mi sfotti, tu e i tuoi amici mi sfottete. No, sei tu il bullo qui. Io non sfotto nessuno. Comunque, tra i sei MC... Io prima pensavo a una collaborazione tra Dilla e Bob Dylan, che, no? Con Dilla che fa rap, che si vada a chiamare Bob Dilla. Okay. O J. Dylan, se Dylan comincia. Vabbè. Ok. Vai. Tra i sei MC coinvolti da Nujabes in Motor Soul c'è anche una rapper, si tratta della newyorkese Apani B. Perché ascoltiamo La La Land sotto? No, non è La La Land. No. È una traccia usata per insomma come base per la prossima canzone, sì. La traccia che la avete come maestra di cerimonia è fra le più ballabili del disco. Questo è il motivo della base che è sotto, si chiama Thank You. E Thank You è proprio il ringraziamento della rapper per l'amore che le è stato dimostrato in Giappone e per l'opportunità che le è stata concessa da Nujabes. Land of the rising sun, here I come. I'm here, next stop, lower eastern hemisphere. Hip hop's hot all around the globe. I witness culture unfold before me. Absorb it in and write the story. Corny as it sounds, it makes me wanna cry. I was born chosen to live this life one soar. Growth to explore, I'm going down undercover me. Fans hover abundantly, trends is loving me. I get my own stage, kill the sound mentality. I'm 1,000 miles away, some things the bomb can't take. But let me start from the heart and sincerely say, thank you. Thank you all for showing up to me. I appreciate this unique opportunity. I'm gonna rock so hard you never stop supporting me. I'm gonna show you how music gives more meaning to life. I thank the fans for showing up to me. And I respect the fact you always keep it real with me. It keeps me centered when I need some fuel lyrically. Your desire for my insight gives me reason to write. I thank you all for showing up to me. You made this journey something that I hold close to me. I see hip-hop as a global link community. It makes sense that music brings more meaning to life. I thank you all for showing up to me. New Jobs, a Note Cosa Città, in questa puntata dedicata a lui e a Dilla che abbiamo ascoltato prima. Questo è il lato B proprio, quello che in genere la gente non ascolta. A sentire il lato A. Vabbè. Lo faccio in tempo. Nonostante il successo in patria e fuori, New Jobs continua a trattare la propria musica come poco più che come un hobby. Si considerava un producer e il suo interesse primario restava la sua casa di produzione, la sua etichetta, la Hideout Production. Gli anni successivi a Motor Soul furono così orientati ai talenti di casa, e da segnalare il debutto di Emancipator e quello del compositore e sassofonista e suo grande amico Uyama Hiroto, o Hiroto, non lo so. Oltre questo, compariva in diverse compilation in collaborazione sempre con artisti della sua etichetta. Il suo spirito schivo lo spinse a una vita quasi ascetica e trascorreva le sue giornate tra la sua dimora costiera in un villaggio a un centinaio di chilometri da Tokyo e appunto tra la dimora e gli studi di registrazione. Una notte però la metropoli da cui cercava di fuggire ogni giorno se lo prese per sempre. New Jobs morì il 26 febbraio del 2010 di incidente stradale, aveva appena compiuto 36 anni. Lo sgomento fu enorme in patria e non solo, anche nella comunità afroamericana che hip hop che aveva avuto a che fare con lui, e così i tanti amici sparsi per il mondo fecero il possibile per rendergli omaggio. Nel primo anno, nel 2000, nel resto del 2010, nei primi mesi del 2011 uscirono due raccolte di tributi pubblicate appunto da persone a lui vicini. Però la vera conclusione del suo lavoro, del lavoro di New Jobs, è considerata Spiritual State, il suo terzo disco in studio, composto da materiale inedito che aveva lasciato in stand-by o in qualche parte incompiuto. L'album è uscito nel 2011, non è all'altezza di Motor Soul e forse, viste le condizioni, non poteva esserlo. Non sappiamo quanto New Jobs ci avrebbe lavorato ancora. Certamente la musica stava cominciando a cambiare direzione. A colpire al cuore di quest'album sono i brani in cui New Jobs è solo, quelli strumentali, come quella che stiamo per ascoltare, Rainway Back Home, è costruita sopra Me or the Papers, che è la canzone che abbiamo qui come base di Jeru di Damaia. una delle canzoni più belle di New Jabez, forse il più prezioso tra i tesori del DJ riemersi negli anni, no? dopo la sua morte, si chiama Perfect Circle. L'ha prodotta uno dei suoi più grandi amici, l'abbiamo nominato prima, Yuyama Hiroto. Il flow invece è quello del rapper nippo americano Shingo Tu, al secolo Shingo Annen, di cui riparleremo a breve nell'ultima canzone della scaletta. Complice il titolo, appunto, Perfect Circle, e sembra davvero chiudere un'era. La base, lo sentiamo qua sotto, poggia sul pianoforte di Bill Evans e sul basso di Ray Brown, che New Jabez si riesce a rendere ancora più malinconici. La canzone è veramente splendida, Perfect Circle. Che meraviglia. Sì. Che meraviglia. Siamo arrivati alla fine, quindi cominciamo. No, i saluti li facciamo dopo. Ma presento prima. No, sì, sì, siamo arrivati con l'ultima traccia della nostra scaletta. E nel 2015, a 5 anni dal tragico incidente in cui Nujabes perse la vita, Shingo Tu, quello di cui abbiamo appena sentito, l'abbiamo appena ascoltato sul Perfect Circle, darà alle stampe Lucic Exology. È una raccolta ipotetica, raccolta delle sei parti del progetto che lui e Nujabes stavano portando avanti da diversi anni. Le prime cinque parti erano già state completate, la sesta invece fu ritrovata nel cellulare di Nujabes nelle settimane successive all'incidente. Quindi altre mani sono state costrette a manipolare le linee tracciate dal DJ per completare l'opera, ma comunque è stato già importante ritrovarle. Noi vi facciamo ascoltare la terza parte dell'opera, forse la più bella, quella che era già stata pubblicata in Modal Soul, anche se in una versione leggermente diversa da quella che vi faremo ascoltare noi e quella che poi è uscita in Lucic Exology di Shingo, che ha curato Shingo Tu. E per la base è riprovata l'enorme cultura e curiosità musicale di Nujabes, l'abbiamo detto diverse volte, quello l'abbiamo detto anche parlando di Jedilla, e diceva riprova di questa enorme curiosità c'è la canzone brasiliana che si chiama Tense e Calmaria nella versione di Nana Caimni con Ivan Lims al pianoforte. Io francamente ho capito che sono due personaggi importanti, non conosco il portoghese, chiama l'ambasciata, conosco a fatica l'italiano, quindi scusate la pronuncia. Comunque questa era per dire della curiosità di Nujabes. Lucy, che come ha spiegato Shingo Tu nelle note di copertina dell'album, è una lunga canzone d'amore sotto forma di lettera. Segue la tradizione di pezzi pop come I Need Love di LL Cool J e di I Used to Love Her di Common che abbiamo ascoltato nella parte dedicata a Dilla. Quell'amore dove l'amore in queste lettere non è l'amore per un'altra persona, ma è l'amore per la musica. Quindi amate la musica, amate Nujabes, amate Jedilla, amate pure Onda Rossa e sostenetela. Noi ci sentiamo, no, martedì prossimo forse no. Forse martedì prossimo ci sentiamo no. Sentiamo due martedì, che è carnevale, porta i frappi. Dai. Annuncia. Nujabes, Lucic, parte terza. Ciao. Whenever you're up, feel it. lingering appeal was so unusual. Herbally, what is medicine to a lone soul? Can become poison or some with the whole body fast asleep. Out cold, true vision seem to come to the eye. Take hold of a prophet of me most visibly. I see clear when the world doesn't show it to me. It's so hard to make sense in the cycle of billing. Trying to find a reason to quit and make a killing. I admit, ordealing is painful. Like a star upon a child staring down from the ceiling. How far do we have to stretch the picture before pixelating the human texture? We can take it all back to the register and start all over from the canister and save it all up for an ultimate prize. Homecoming gathering with the big surprise. Throw on your favorite record that's good to go on the analog table and the circuit flow. Sit back with ease and hear the MC flow. Hi-hat, kick drum on the high and low. It's funny how the music put time in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are, feel like we'll keep walking and we can't get far. Yeah. Wherever you are, it's funny how the music put time in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are, feel like we'll keep walking and we can't get far. Wherever you are. And start all over from the canister. Then break it all down into pieces of bright. Moments to pass by like a meteorite. Throw on your favorite jacket and you're good to roll. On the analog trail and you look the role. Just stroll to the trees and let your miseries go. Sunshine, hurricane on the highs and lows.